Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, parleremo oggi soprattutto di manovra economica italiana, manovra correttiva, manovra da 25-30 miliardi, c'è chi dice che ne serviranno di più. Per fortuna i mercati oggi sono tranquilli e dico subito che è inutile guardare l'indice di Milano che perde il 2,5% mentre Parigi guadagna lo 0,2% o Francoforte perde lo 0,3%, perché a Milano c'è lo stacco delle cedole dei dividendi di molti grandi gruppi, Eni, Finmeccanica, Generali, Intesa, Telecom Italia, Unicredit. Quando, come spesso spieghiamo, viene distribuito il dividendo, il titolo cala per un valore corrispondente a quello che è lo stacco della cedola. Basti sapere che insomma lo stacco di 27 delle cedole di 27 società pesa sull'indice per un 2%, quindi se leviamo il 2% Milano perde uno 0,50, più o meno come fa Francoforte. Londra è invariata, l'America perde uno 0,40%. L'euro, le agenzie titolavano oggi a ora di pranzo, euro in netto calo, scivola sotto 1,24 euro. Ripeto, anche ieri sentivo in un programma televisivo telecamere la conduttrice dire: ma insomma, qui il problema è la crisi dell'euro. Ma no, non c'è nessuna crisi dell'euro, diciamo con il massimo rispetto. L'euro a 1,20 è un rapporto, secondo alcuni, ancora troppo alto. 1,10, 1,1 dovrebbe essere un rapporto corretto tra Europa e America. Per cui 1,23, a meno che non si volesse ritenere che 1,50 fosse un buon rapporto, non è il problema l'euro. Il problema è la tenuta dei conti pubblici delle economie dell'area euro che si sono indebitate, vuoi per salvare le banche in alcuni casi, vuoi come nel caso nostro perché l'economia ha frenato di brutto e quindi il PIL è calato e il rapporto deficit PIL e debito PIL chiaramente va a aumentare. Per quello che riguarda i titoli, Ansaldo bene, più 1,86%, Enel più 1,12%, Estima Electronics più 1%, Prismian più 0,6% come Bulgari, Unicredit più 0,4% come Telecom Italia, Banco Popolare più 0,3%. Chi perde? Generali, ripeto, attenzione che appunto molti hanno lo stacco della cedola. Generali perde il 2%, scusatemi. UbiBanca il 2%, Pirelli l'1,94% come Unipol e come Impregilo, l'1,80% lo perde l'Automatica, l'1,6% Azimut, 1,5% il calo di Mediolanum e anche di Mediaset, l'1,3% lo perde Atlantia, Snam, Rete Gas, ma anche la Popolare di Milano. Di questo parleremo più avanti. I temi di oggi, dicevo, le ipotesi di manovra che stanno circolando, da poco è rispuntata l'idea di un condono per le cosiddette case fantasma, la lotta all'evasione fiscale, per quello che riguarda sarà il tema di apertura, perché oggi sulle 24 ore nel rapporto annuale ha scoperto che insomma è aumentata l'evasione nel 2009, sarà anche la crisi, quello che volete, però non si può dire che si è diminuita, forse qualche contrasto in più si può fare se questo non va a toccare la sensibilità del governo. È un invito che facciamo all'Agenzia delle Entrate, al Ministro dell'Economia, perché i dati, pur con tutto quello che è stato l'effetto della crisi, per cui uno tende magari a sommergersi di più, insomma i dati restano altissimi, doppi rispetto alla media europea. Di questo parleremo anche in apertura. Poi nella seconda ora del programma invece l'evasione fotografata per regioni, perché poi se si va a vedere quanto evade il nord, lo dico senza nessun atteggiamento politico sulla cosa, e quanto evade il sud, ci si accorge che addirittura il nord paga più tasse di quelle che dovrebbe, se diciamo tutti avessero un'evasione uguale o comunque dichiarassero quello che guadagnano. Ripeto, i dati sono sconfortanti sulla base della media europea. Da noi, da solo, quello che non arriva al fisco per via dell'evasione è pari a circa 100 miliardi di euro, il che significa la bellezza di 6 manovre finanziarie. Voglio dire, vale tutto il nostro deficit. Se noi riuscissimo a recuperare tutta l'evasione non avremmo deficit, saremmo in attivo di 20-30 miliardi. Se avessimo un'evasione simile a quella dei paesi europei, alla Francia, invece che 100 sarebbero 50 miliardi, avremmo quasi azzerato il deficit, altro che manovra correttiva, mantenendo un'evasione all'11% del PIL come ha la Francia e non al 22% come abbiamo noi, ci batte solo la Grecia. Vabbè, questi temi di oggi. Parleremo anche dell'utilizzo delle carte di credito e dei bancomat per combattere in maniera indiretta l'evasione fiscale, oltre che per abbattere i costi del sistema. Le banche italiane, il sistema bancario spende 10 miliardi di euro l'anno per l'utilizzo dei contanti che viene fatto in Italia, che significa furgoni della sicurezza, polizze assicurative, anche furti. Anche qui l'Italia usa i bancomat, le carte di credito, un terzo, cioè tre volte in meno rispetto alla media europea. Lasciamo stare quella americana. Basterebbe stimolare un po' di più questo utilizzo per avere minori costi di sistema, minori rischi e anche minore evasione, perché sappiamo che quando paghi con la carta di credito tutto è assolutamente tracciabile. L'ultima cifra, quella per i vostri sms, 349-238-6666, la manovra correttiva confermo che è tra i 25 e i 30 miliardi di euro. Le altre notizie in breve. Allora, partiamo dal petrolio, in leggero aumento, ma resta sempre a 70 dollari al barile. E ancora è iniziato invece questa mattina a Pechino il vertice strategico cino-americano di due giorni. Tra l'altro noi saremo dalla prossima settimana con parte del programma in diretta dalla Cina. Seguiremo infatti la missione Confindustria, ABI e governo italiano in Cina, con il centro a Shanghai, dove c'è anche il padiglione italiano, uno dei più visitati in assoluto all'Expo di Shanghai. Trasmetteremo parzialmente Focus Economia dalla Cina. Il presidente cinese Hu Jintao oggi ha ribadito che Pechino è al lavoro su una riforma della valuta cinese, lo yuan, ma che sarà comunque graduale. Beh, oggi di notizie ce ne sono poche. C'è il rapporto dell'ABI, il rapporto sul settore bancario, poche oltre quelle che trattiamo, ci mancherebbe. La crisi ha provocato effetti negativi nel 2009 per le banche, che si protrarranno anche per il 2010. L'anno scorso le banche italiane hanno avuto un calo dell'utile del 22% e hanno dovuto rettificare, cioè correggere i conti in maniera peggiorativa, per 20 miliardi di euro. E queste le principali notizie, tutto il resto è manovra. E non noia, ma tutto il resto è manovra, con l'aggiunta battuta dalle agenzie di circa mezz'ora fa, meno di un'ora fa, che rispunta il condono. Viene in sostanza, avete letto che fino a questa mattina il condono veniva smentito, un condono edilizio. Sembra che dalle ultime discrezioni vi sia dentro la bozza all'esame del Consiglio dei Ministri una sanatoria per l'emersione delle case fantasma, quelle non dichiarate al catasto e al fisco. La sanatoria si dovrebbe estendere anche a quegli immobili su cui sono state effettuate variazioni e ampliamenti non denunciati al fisco. Già un condono c'era stato immobiliare nel 2002, vado a memoria, però precedente governo Berlusconi. Vediamo adesso di fare anche il punto su quello che è emerso. Si tratta sempre di bozze, le smentite dal ministro Monti sono già arrivate negli ultimi giorni. Dicevo, i temi o perlomeno le ipotesi di questa manovra da 25/30 miliardi. È utile guardare anche però cosa fanno gli altri. Secondo il Financial Times, oggi la Germania scrive oggi che la Germania si sta preparando a un drastico piano di austerity, 10 miliardi di euro di tagli all'anno fino al 2016. Gran Bretagna, 6 miliardi e 2 di sterline di tagli, quindi anche qui siamo sui 10 miliardi circa. E poi una maxi tassa per le banche che potrebbe arrivare fino a 9 miliardi di euro. Spagna, Zapatero ha dovuto cedere e comunque, dopo la pressione dei mercati del presidente Barack Obama, dei partner europei, nuovi tagli per 50 miliardi di euro in 3 anni. Cioè, i tagli da 50 miliardi di euro in 3 anni li aveva già annunciati a febbraio, e poi aveva annunciato la Spagna anche l'aumento di 2 punti percentuali dell'IVA. Adesso, venerdì scorso, ha approvato un'altra manovra correttiva, altri 15 miliardi, che sostanzialmente sconfessano, se così possiamo dire, la linea di Zapatero fino a questo momento, perché verranno tagliati del 5% gli stipendi degli statali, verranno congelate le pensioni, vi sarà una scure sulla spesa sociale e anche sugli aiuti allo sviluppo e gli investimenti pubblici. I ministri spagnoli simbolicamente si sono ridotti lo stipendio del 15%. E invece da noi ricordo che insomma quello che Tremonti ha definito l'aperitivo prevede un 5% di riduzione degli stipendi dei nostri parlamentari. Si può fare di più. Comunque, per domani dovrebbe arrivare via libera del governo alla manovra correttiva 2011-2012 da 24 miliardi di euro per ora. Deve portare il deficit sotto il 3% l'anno prossimo e alle 18 si riunisce il Consiglio dei Ministri per via libera del pacchetto complessivo. Le ipotesi previste, la pensione, riduzione da 4 a una finestra per andare in pensione, limite e da 4 a 2 finestre per le pensioni d'anzianità. La lotta all'evasione, limite di 5.000 euro per i pagamenti in contanti o tramite assegno e introduzione della fattura elettronica. Dirigenti pubblici, taglio dello stipendio del 10% per chi guadagna più di 120.000 euro, ma sappiamo che sono pochissimi in Italia, e del 5% per chi guadagna oltre 90.000 euro, aliquota maggiorata per le stock option dei manager e ancora taglio degli stipendi del 15% per parlamentari e ministri, a cui si dovrebbe aggiungere un taglio dell'indennità. E poi nella sanità l'introduzione di un parametro di riferimento per gli acquisti della sanità per evitare gli sprechi. Ticket sanitari, che qui sembrava dovessero esserci, poi Berlusconi ha detto di no. Comunque da 7,5 euro a 10 euro di ipotesi di un ticket sanitario per le visite specialistiche e la diagnostica. Aumento anche dei pedaggi autostradali e soppressione degli enti ISAE, ISTOL, ICE ed Ente per la montagna. Mi sembrano cose un po' diverse, però vedremo. Nel frattempo, e così vi arrabbiate subito, vedo già i messaggi al 349-238-6666, il Sole 24 Ore anche oggi ha scoperto che la lotta all'evasione si starà anche facendo, ma l'evasione continua a aumentare. E io capisco la crisi, però forse evidentemente anche gli strumenti che l'Agenzia delle Entrate ha come contrasto all'evasione non sono del tutto così efficaci. Salvatore Padula, caporedattore del Sole 24 Ore, del lunedì del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, avete scoperto che dal 2007, quando l'evasione, mi riferisco al mancato gettito in questo caso, non parliamo dell'imponibile, Esattamente. È peggio. L'imponibile è sui 230-240, c'è chi stima con la criminalità organizzata 350 miliardi di euro. Il mancato getto per lo Stato era 100 miliardi nel 2007 e voi avete scoperto che nel 2009 quanto ammonta? Ma siamo arrivati a sfiorare quota 120 miliardi, sono 118 per la precisione. Hai detto bene, il valore dell'economia sommersa, la shadow economy, si colloca grosso modo tra i 230 e i 260 miliardi di euro che ogni anno, diciamo, sfuggono a qualsiasi tipo di tassazione e contribuzione sociale. Abbiamo poi stimato, partendo da questo dato, che appunto nel 2009 l'evasione in termini di imposte non versate, in termini di contributi sociali non versati, in termini di tasse locali non versate, ammonta a quasi 120 miliardi di euro, 118 come dicevamo. È un dato certamente impressionante, un dato che diciamo si fonda sul calcolo del valore dell'economia sommersa stimato dall'Istat. Devo dire che il dato dell'Istat non è recentissimo, risale al 2008. L'Istat tra poche settimane, forse tra un paio di mesi, rilascerà il nuovo valore, però come dicevi ci sono insomma elementi che spingono la convinzione che in qualche modo la crisi stia avendo un effetto particolarmente negativo sull'andamento dell'economia sommersa. I dati sono questi, e adesso per far arrabbiare ancora di più chi è in ascolto, che paga le tasse, siccome spesso diciamo, e le abbiamo date decine di volte, le cifre su quanto è l'imponibile medio in Italia, 18.000 euro lordi, quante persone dichiarano più di 200.000 euro l'anno sono lo 0,2, cioè 75.000 persone, di cui 62.000 sono dipendenti o pensionati, quindi i lavoratori autonomi che dichiarano più di 200.000 euro lordi l'anno sono la bellezza di 13.000, praticamente niente. Chi dichiara più di 100.000 euro lordi l'anno sono l'1%, di cui anche qui i lavoratori autonomi, quindi non i dipendenti o i pensionati, sono solo 160.000 persone. Faccio notare, l'abbiamo fatto molte volte, che in Italia ci sono 1 milione di automobili con cilindrata superiore ai 2500 cc. Ci sono 94.000 barche sopra i 10 metri. Ci sono 500.000 barche comunque sotto i 10 metri, che per carità non saranno sintomo di ricchezza enorme, ma insomma neanche di povertà, neanche da 18.000 euro lordi all'anno. E via così, però siccome queste cose non servono, spesso dite ma insomma gli altri paesi, l'evasione, non si riesce a vivere. Allora, abbiamo detto spesso, basterebbe portare l'evasione a livelli francesi, non è che in Francia non si evada, si evade la metà, cioè invece che il 22% del PIL come da noi, si evade all'11% del PIL, il che vuol dire essere realistici ma essere un po' più civili. Vorrebbe dire 50 miliardi in più nelle casse dello Stato, cioè evitare questa manovra e anche quella l'anno prossimo e avere praticamente il deficit pari quasi a zero, mantenendo 50 miliardi di mancate tasse e quindi più o meno a stima 140 miliardi di evasione reale. Basterebbe portarla alla metà, quindi nessuno morirebbe e si riuscirebbe a fare. Comunque, per arrabbiarsi ancora di più, questa scheda. Tolti il bel mare e le spiagge assolate, di questi tempi sarebbe meglio non mostrare troppe affinità con la Grecia. Purtroppo ad avvicinare Roma ad Atene c'è invece anche l'altissima incidenza dell'economia sommersa e dell'evasione fiscale. Se in Grecia la cosiddetta shadow economy vale il 25% del PIL, in Italia si arriva comunque al 22%. Evasione fiscale e attività illegali valgono infatti nel nostro paese circa 350 miliardi di euro e il confronto internazionale risulta impietoso. In Spagna e Portogallo l'economia in nero rimane sotto il 20% del PIL. In Germania si ferma al 14,7%, in Irlanda al 13%, in Francia e Regno Unito all'11%, la metà rispetto al nostro paese. Per non parlare poi dei casi più virtuosi come il Giappone o gli Stati Uniti, con un tasso di nero rispettivamente al 9,8% e al 7,8% del PIL. A fare peggio di noi è, insomma, appunto, soltanto la Grecia. Da sola, l'evasione fiscale vale circa l'8% del PIL. Ogni anno, nelle casse del Tesoro, arrivano infatti 120 miliardi di euro in meno di quanto dovrebbe, e negli ultimi anni si è per di più registrata una tendenza all'aumento. Anche in questo caso i dati regionali dipingono un paese spaccato in due. In Lombardia, la regione più virtuosa, l'evasione si ferma al 12,5%, un tasso paragonabile a quello di Germania o Francia. Risultano accettabili anche il 19% di Emilia-Romagna e Veneto. In Lazio e Piemonte si arriva al 25% o poco oltre. Al sud si sprofonda invece verso tassi di evasione che fanno sembrare la Grecia un modello di fedeltà fiscale. In Campania e Puglia i mancati pagamenti superano il 50% di quanto versato. In Sicilia si sale oltre il 60% e in Calabria si raggiunge la desolante cifra dell'85%. In altre parole, per ogni 100 euro pagati in tasse se ne evadono 85. Eh sì, poi ne parliamo nella seconda ora con Luca Ricolfi, che ha scritto un libro, Il sacco del Nord, perché insomma qui, ripeto, non, nessuno vuole buttare in politica, men che meno in questo programma, ma insomma non è possibile avere l'85% di evasione in Calabria e il 60% in Sicilia, non è accettabile. Lo dico in maniera molto tranquilla, praticamente le regioni virtuose, quelle dove si evade di meno, pagano 20 miliardi di tasse in più. Quelle del mezzogiorno fanno mancare 18 miliardi di gettito, sono i calcoli del professor Ricolfi, ne parliamo dopo. Comunque, in manovra finanziaria, allora vedo alcune flash d'agenzia che vi leggo, poi Salvatore Padura ci darà alcuni aggiornamenti. Gianni Letta, sottosegretario alla Presidenza, ha detto ci saranno sacrifici duri, pesanti, molto duri, che siamo costretti a prendere, spero in maniera provvisoria, mamma mia, con una temporalità anche già definita per salvare il paese dal rischio Grecia. Capiamolo così e ci capiamo tutti. L'ha detto Gianni Letta, che ha definito duri, molto duri, i sacrifici che saremo costretti a prendere, altrimenti c'è il rischio Grecia. Vedo molti messaggi che dicono ma come il governo diceva fino a 2 anni fa, lo sappiamo, fino a 2 anni fa Berlusconi diceva che la crisi non c'era, si è sbagliato anche lui, che dobbiamo fare? Adesso non è che si può continuare sempre su sto tema, c'è stato un tentativo di dire che la crisi era dovuta a una sfiducia dei cittadini in qualche modo influenzata dai media. Abbiamo capito che non è così e ne ha preso atto anche il governo. Invece Carlo Sangalli, il presidente di Confcommercio, dopo un incontro con il ministro Tremonti poco fa, ha detto che nella manovra economica non è previsto né un condono edilizio né un aumento delle tasse. Vabbè, sacrifici duri per tutti, speriamo anche per gli evasori, Salvatore Padula. Allora, che cosa c'è dalla bozza che sono circolate per aumentare il contrasto all'evasione fiscale? Ma dunque, posto che siamo veramente nel campo dell'ignoto, nel senso che sappiamo alcune cose, ma naturalmente domani ne avremo conferma. Direi che sul fronte evasione fiscale, che ricordo sarà comunque lotta all'evasione fiscale, che sarà comunque uno dei cardini, uno dei punti chiave di questo intervento di finanza pubblica, ci sarà senz'altro una misura che tende a ridare forza e dare vigore al redditometro, cioè quello strumento che consente di individuare, diciamo, la congruità del reddito dichiarato dalle singole, dalle persone fisiche, quindi non parliamo in questo caso di società, persone fisiche, con le spese che vengono sostenute. Rispetto al passato ci sarà una più stretta correlazione tra le spese sostenute per acquistare beni e per mantenerli con il reddito dichiarato dal contribuente e dalla sua famiglia. Quindi questa mi sembra comunque una novità importante, qualche spunto, qualche elemento di novità. Sì, anche perché mancando il quoziente familiare tu puoi guadagnare 60.000 euro e avere tre figli ed essere così in una situazione assolutamente media. E non avere case di proprietà. Altra cosa è guadagnare 60.000 euro, avere un figlio o non averli, per lo meno che tu sappia, e avere case, barche, certo, di eredità, perché insomma, le cose sono molto diverse. Ecco perché si va più verso un redditometro che non verso la tassazione solo del lavoro. Sì, diciamo che questo strumento, l'aggiornamento del redditometro, ci porterà a uno strumento molto più affinato, per esempio, che terrà conto anche delle differenze territoriali, che è inutile negarselo, esistono, cioè avere un reddito di 30.000 euro a Milano non è come avere un reddito di 30.000 euro in un piccolo centro del sud Italia. Quindi diciamo che il redditometro dovrebbe essere rimodernato, ammodernato. Qualche visita da parte delle Fiamme Gialle anche ai porti marini, insomma, ci sono delle cose molto interessanti lì, se si vanno a vedere le barche a Napoli, i satelliti per fare questo tipo di controlli, vogliono andare, andassero, ci sono delle cose interessanti da scoprire, visto che appunto poi le dichiarazioni dei redditi sono delle cose da miseria, da pane e acqua però mangiato in barche da 15 metri, forse per controbilanciare. Allora, invece sembra abbastanza certo che la soglia per pagare contanti, che Tremonti, mi voglio dire anche qui, è stato fatto un errore? Probabilmente sì, il ministro non lo dirà, lo diciamo noi, perché il Visco la portò a un livello sempre più basso fino ad arrivare a 100 euro, sì, era il minimo, sì. Cioè quanto si poteva pagare in contanti. Tremonti, arrivato al governo nell'ultimo governo Berlusconi, la riportò a 12.500 euro, adesso scenderà una media più bassa di quella europea, in Europa è in media 7.000 euro. Dovrebbe scendere, se ho ben capito, Salvatore, a 5.000 euro la cifra massima in contanti. Sì, diciamo, in realtà qui parliamo di tre misure dentro un unico concetto, che è quello di rendere tracciabili, individuabili i movimenti di denaro. Il primo è quello che hai citato tu, cioè c'è una misura che tende a obbligare al pagamento con strumenti elettronici, e quindi verrà reintrodotto direi il divieto di usare il contante per le transazioni superiori a determinati livelli. Sabato si parlava di 3.000 euro, oggi si parla di 5.000, quindi vedremo un pochino quale sarà il livello al quale poi questa norma si posizionerà. Poi c'è una misura che riguarda gli assegni, cioè l'obbligo di segnalazione alle autorità monetarie scatterà per gli assegni superiori a 5.000 euro, oggi invece è a 12.500 euro. Poi ci sarà una terza misura, probabilmente anche questa, diciamo, abbastanza importante, che riguarda le transazioni commerciali tra le imprese, cioè dare una maggiore spinta alla fattura elettronica. Che ovviamente, e di questo parliamo col presidente dell'Istituto delle Banche Popolari dopo il meteo, perché fattura elettronica e aumento dei pagamenti con la carta di credito o col bancomat permettono da un lato di eliminare costi impropri del sistema, il contante ha dei costi enormi, per chi lo deve gestire, per le sistema bancario. Dall'altro, obiettivamente, se tu iniziassi a pagare un po' tutto con la carta di credito, anche altre spese, è più difficile evadere, lo sapessero anche i cittadini quando vanno al ristorante, quando vanno in, certo, in altri posti. Due risposte rapidissime alle domande. Marco da Vicenza dice: ma insomma, con l'evasione, anche l'evasione torna in circolo poi. Beh, su questo la teoria economica non è d'accordo con lei, Marco, mi dispiace, nel senso che tu quello che evadi puoi anche tenertelo in banca, puoi anche tenerlo sotto il cuscino, puoi portarlo in Svizzera, come abbiamo visto con lo scudo fiscale. In circolo dove? Diciamo che se si vuole mettere in circolo qualcosa, meglio pagare le tasse e che questi soldi vengano ben utilizzati, perché non è, è un po' quello che si diceva della criminalità organizzata, ma insomma la camorra, l'andrangheta, però poi creano ricchezza. Non è vero, vanno a comprarsi le ville a Capitantibe. Certo. No, voglio dire, se l'ascoltatore intende dire che in qualche modo in passato l'evasione fiscale ha funzionato come una sorta di, scusate, di ammortizzatore sociale in determinate aree del paese, probabilmente un fondo di verità. Sì, insomma, vabbè, ma poi certo, lo può fare solo chi ha il doppio lavoro, certo, oppure chi... Certo. Non le mette lo scontrino, gli altri che cosa fanno? Si attaccano. E invece ancora molti pongono il dito sul fatto che poi lo Stato sprechi i soldi. Infatti abbiamo parlato anche della manovra correttiva sulla spesa della pubblica amministrazione. Siamo d'accordo, ma non è che siccome lo Stato spreca ogni tanto i soldi uno non può pagare le tasse. Cioè, non funziona così. Come dire, tutti mettono la macchina in doppia fila, allora non voglio la multa io. Non c'entra. Oppure se il comune non rifà le strade io metto la macchina in doppia fila, sono due cose diverse. E poi ancora vedevo altri messaggi su questo, vabbè, quanto si ridurrebbero le aliquote se tutti pagassero, beh, capirai. Bella domanda, però non siamo in grado di rispondere. Allora, grazie Salvatore Padula per ora, perché ripeto, alle 18 poi rinizierà il Consiglio dei Ministri, meteo, pubblicità e poi cerchiamo di capire che vantaggio potrebbe avere il sistema tutto, non solo per l'evasione, nell'utilizzo di carte di credito e banco. Ma Tassi, c'è un messaggio che dice: Barisone amico delle banche. Questa non l'avevo ancora sentita, però adesso anche questa. Meteo, pubblicità. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La borsa ha chiuso con un meno 2,6% a Milano, ma ripeto, un 2% valgono gli stacchi delle cedole, quindi l'effetto corretto sarebbe meno 0,6. Francoforte meno 0,4, Parigi invariata, l'America sta perdendo mezzo punto percentuale, Londra invariata anch'essa. Giornata oggi più tranquilla sulle borse con i vari piani di rientro dei vari paesi che abbiamo illustrato, poi ne parleremo. Ripeto, l'agenzia battuta un quarto d'ora fa, Gianni Letta, la manovra che il governo varerà conterrà una serie di sacrifici molto pesanti, molto duri, che siamo costretti a prendere. Spero, sto leggendo le dichiarazioni di Letta, in maniera provvisoria con una temporalità anche già definita per salvare il nostro paese dal rischio Grecia. Capiamolo tutti, ci capiamo tutti. Ecco, speriamo che i sacrifici siano per tutti, compresi a partire dagli evasori, oltre che lo spreco della pubblica amministrazione. Dicevo, un messaggio che è arrivato durante il meteo: vogliono metterci il chip sotto la pelle, non così non saremo più sudditi ma schiavi. Cioè, questo è il tema delle carte di credito. Io non capisco perché ci sia questo problema culturale, a meno che uno non sia in malafede, nell'usare bancomat e carte di credito. Parliamo di questo perché ci sono effetti positivi indiretti sulla lotta all'evasione, ma anche sui costi di sistema. E allora, anche perché nel nostro paese, anche qui, come l'evasione è doppia rispetto alla media europea, l'utilizzo delle carte di credito è la metà, almeno, della media europea. Parliamone con Giovanni De Censi, che oltre ad essere presidente del Credito Valtellinese, è anche presidente dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. Buonasera Presidente. Buonasera. In questo caso lei ci parla come Presidente dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, che è una banca di secondo livello, che tra l'altro voi siete leader in Italia nei servizi di pagamento, no? Avete il 45% del mercato e quindi avete, tra l'altro, se non ricordo male, anche acquisito Cartasì e Key Client, no? Abbiamo 10 milioni di carte di credito e 21 milioni di carte di debito che gestiamo con un processato sull'issuing di 27 miliardi E sul transatto superiamo i 40 miliardi di transazioni. Di euro sulle carte. Quindi 10 milioni di 570 mila POS, ecco, per dare l'idea, convenzionati, e 10.000 gli sportelli, gli ATM, i cash dispenser distribuiti in Italia. Quindi sono 10 milioni di carte di credito che gestite, 21 milioni di bancomat, li chiamo così, carte di debito. Sì. E con 570.000 POS e oltre 10.000 cash dispenser, bancomat li chiamo in gergo, quindi distributore di contanti. Allora, ci faccia capire una cosa. Innanzitutto, mi sembra chiaro, lo scrivono anche gli ascoltatori, che utilizzare le carte di credito permetterebbe obiettivamente di abbassare quella che è l'elusione barra evasione fiscale, perché lì è tutto tracciabile. C'è però un costo anche per il sistema bancario che è incredibile. A quanto ammonta il costo dell'utilizzo del contante? Fermo restando che in Italia noi abbiamo un uso del contante che è il doppio rispetto alla media europea, e anche qui, come con l'evasione, basterebbe avvicinarsi alla media europea, per non parlare degli Stati Uniti, dove l'utilizzo è 4 volte superiore, ma lì insomma ormai il contante lo si usa solo per piccolissime spese, pagare qualcosa con migliaia di euro in contanti di solito fa chiamare la polizia in America, perché uno pensa a un rapinatore. Ma diciamo, restiamo in Europa. Noi quanto spendiamo per la gestione del contante come sistema bancario? Noi per gestire il contante spendiamo oltre 10 miliardi di euro l'anno, è uguale a una finanziaria, perché i costi sono, uno non li pensa, ma pensa che siano le rapine, i costi sono le polizze di assicurazione, il tempo delle persone che devono contare i soldi, i trasporti di valori, i mezzi forti che devono essere impiegati, le falsificazioni. Noi arriviamo a un conto di 10 miliardi l'anno. Questo vuol dire che impegnarsi a utilizzare invece la moneta elettronica vuol dire guadagnare in tempestività, in sicurezza e, come diceva lei prima, in tracciabilità, perché tutto il pagamento rimane sempre significativamente preciso, e questo consente riduzione di costi. Lei pensi solo pagare una bolletta, cosa costa pagare una bolletta di telefonica o dell'energia in contanti? Lei deve andare allo sportello, quindi perde il suo tempo. Lo sportellista costa 2 euro al minuto, per fare un'operazione ci vogliono 2 o 3 minuti, deve prendere i soldi, incassarli, dare una ricevuta, tutte cose che si possono fare in automatico con le carte. Lei pensi ai poveri pensionati che ricevono le pensioni, devono andare a prendersi i soldi in banca, alle poste, dove vogliono, ritirare, cioè tutte cose che possono avvenire senza che la persona si debba muovere, perché se ha una carta conto, una carta tipo quelle che adesso abbiamo messo in circolazione anche noi come credito valterinese, una carta che è anche l'IBAN, quindi c'è anche l'indicatore del conto, senza avere il conto corrente in banca, e può ricevere i soldi, usarli per prelevarli al bancomat, può fare i trasferimenti in altre aziende. Voglio dire che in concentrarsi, quando io sostengo che la tracciabilità della pubblica amministrazione è prima di tutto un modo per educare i cittadini a utilizzare gli strumenti elettronici. Noi in Europa abbiamo pagamenti dell'ordine, come numero, dei 50-60 miliardi di pagamenti che continuano. Noi come istituto centrale siamo assieme a banche tedesche, olandesi e francesi e ne controlliamo circa il 15%. E ci rendiamo conto che la massa critica di questa operazione può continuare a salire riducendo i costi per i beneficiari e la sicurezza, e l'uso delle carte è fondamentale per questo. Sì, tra l'altro adesso devo dare le linee alle informazioni sul traffico, però insomma, poi vi leggo anche qualche dato su quanto poco si usino le carte di credito ai bancomat in Italia, anche qualche messaggio che dice vabbè, ma devono averli tutti i bancomat degli esercenti. Sì, lo sappiamo che delle volte uno arriva, il bancomat è stranamente fuori funzione, la carta di credito è stranamente fuori funzione, delle volte ti guardano un po' strano quando vuoi pagare 10-20 euro con un bancomat e non si capisce perché, solo in Italia, a meno che uno non voglia evadere il fisco. Comunque, traffico, poi torniamo in diretta. Allora, di nuovo in diretta, due rapide risposte. La prima, non è vero che le banche ci guadagnano necessariamente con le operazioni col bancomat, per esempio. La Visa e altre carte di credito hanno dei costi aggiuntivi, penso per esempio al carburante, che chiede la visa e pagate il carburante col bancomat. Qual è il problema? Cioè, nel senso, l'importante non si capisce però perché praticamente da noi, io ho sbagliato per difetto, noi usiamo le carte di credito e carte di debito, bancomat e altre, un terzo, pensate che noi facciamo 677 operazioni contro le 6650, contro le 1400 dei francesi e quasi triplo degli inglesi. Questo è abbastanza paradossale. Presidente De Censi, voi che sforzo state facendo con la pubblica amministrazione? Ma lei immagini di pensare che tutte le volte che va in contatto con la pubblica amministrazione deve pagare qualcosa, un bollo, la patente, un'altra attività, e tutto il lavoro deve essere fatto. Se non è pagabile in via elettronica, lei deve andare fisicamente sempre su questo, quando invece la trasferibilità del denaro le consente anche di poi rendere trasferibili elettronicamente i documenti. Mm-hmm. Cioè la semplificazione dell'attività, oltre che la sicurezza e la tempestività, dà una riduzione di costi. Quindi l'introdurre la strumentazione elettronica nei pagamenti, adesso qualche passo avanti si fa, abbiamo visto la posta certificata che ha introdotto il ministro in questi giorni, il ministro Brunetta. Mm-hmm. Le immagini a tutti solamente i pagamenti che si fanno per le piccole cose. Noi stiamo facendo una sperimentazione, come è stata fatta anche a Milano, ma noi la stiamo facendo in Valtellina con Visa, abbiamo fatto una carta contactless, cioè una carta che è una carta bancomat normale, ma è attrezzata con uno strumento elettronico che le consente di pagare senza avvicinarsi alla cassa. Quando deve usare le piccole monetine, pagare il caffè, pagare il giornale, pagare il parcheggio, tutta questa attività qui significa ridurre enormemente i costi di gestione. Io dico che l'introduzione nella pubblica amministrazione, lei immagini i pensionati, il numero di pensionati, e immagini tutta la gente che deve versare contributi, immagini a tutti quelli che devono rivolgersi ai comuni per versare delle quote eccetera, che possono farlo benissimo stando a casa loro utilizzando strumenti. Sì, ci sono due problemi a mio avviso culturali. Allora, il problema dell'evasore è che non vuole i pagamenti tracciabili, e quello è il problema dell'evasore. Certo, questo diciamo, vedo anche dei messaggi al 349-238-6666 di persone che insomma non hanno nessun motivo per ritenere che siano evasori, ma che dicono due cose. Da un lato è più difficile tenere la contabilità, nel senso che mi riferisco soprattutto ai pagamenti con la carta di credito, se sono piccoli, non sono grandi cifre. E poi ci potrebbe essere un problema, uno non si fida. Io faccio sempre un esempio. Quando uno arriva ai caselli autostradali, lasciamo stare il telepass, ma se la cosa che a me risulta incredibile è che c'è la fila, magari la coda per pagare in contanti, e poi ci sono i caselli dove basta pagare col banco, ma con la carta di credito, vuoti. Cioè, un problema culturale per cui uno non si mette in fila lì, perché chissà che cosa teme, che si mangi il bancomat, che non gli ritorni la carta di credito alla macchina. Cioè, qui c'è un problema di un paese che è ancora attaccato al contante. Dai. È un problema culturale, cioè il pensare che quando si deve effettuare un pagamento fatto con uno strumento elettronico è più veloce, questo il tempo la gente non lo calcola mai. Ma uno che è lì a fare il cassiere deve prendere i soldi, dare il resto, dargli le monetine, fare il calcolo, avviene tutto in forma automatica. Certo, la tracciabilità rende possibili anche la contabilizzazione immediata, certo non si può manipolare poi una contabilità se uno ha incassato in via elettronica una cifra, deve scrivere quella che è, non può dopo cambiarla. Ma io parto sempre dal presupposto che tutti i cittadini abbiano ben presente che abbiamo fatto un'imposizione fiscale equa e che tutti devono pagare la loro parte, quindi quando uno non paga danneggia l'altro cittadino. Presidente Censi, secondo me poi c'è un problema proprio culturale. Faccio sempre l'esempio del casello autostradale in cui tu trovi la fila anche lunga dove si paga in contanti, poi è mezza vuota la parte dove paghi con la carta di credito e col bancomat. È una cosa inspiegabile, uno preferisce fare un quarto d'ora di fila in più piuttosto che usare il bancomat. Chissà cosa teme, che glielo freghi la macchinetta del casello, non si capisce. E questo lo dico anche a chi sta scrivendo delle cose in alcuni casi deliranti. State facendo pubblicità alle banche, il vantaggio per le banche, ma qual è il vantaggio? Ma fatemi capire qual è il vantaggio per le banche se tu vai a pagare tu non ci paghi sopra con la Visa o con la carta di credito qualunque, col Bancomat, le transazioni commerciali. Lo svantaggio è per chi dichiara al nero, questo è poco ma sicuro, e forse ecco perché di così tante irritazioni in alcuni di voi. Al McDonald's non si paga col Bancomat né con la carta ma solo in contanti, e avete ragione ad essere esempio anche a McDonald's. Grazie al presidente del Credito Valtellinese e dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Giovanni De Censi, il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Adesso parliamo di borse. Non vi dico i messaggi che sono arrivati sull'utilizzo delle carte di credito e Bancomat per portarlo al livello degli altri paesi europei. Allora, molti di voi lamentano il carico al commerciante, il 3% contro l'1% del resto del mondo. Adesso io non so se sia l'1% del resto del mondo. È vero che le carte di credito soprattutto costano, i Bancomat costano meno, è vero che ci sono anche delle operazioni che inspiegabilmente costano quando c'è la carta di credito, e va bene, però io dico, da cittadino cliente, se tu paghi la pizza, il fabbro, l'idraulico, in molti paesi anche il tassista con la carta, con il Bancomat, mettiamo, che cosa ti cambia? Mica ti aumenta il costo. Cioè, io questo non capisco. Allora, si dice sempre il contrasto all'evasione, e pagate col Bancomat, giri con meno contanti. Il vantaggio per le banche, insomma, vediamo, questo non mi è chiaro, ma io parlo del cittadino normale. Il costo di un'operazione è di 2 euro, ma dipende, penso che molti di voi si riferiscono al prelievo da altri istituti, che è una cosa su cui l'antitrust, li hanno colpa le banche, si è già mosso e ha chiesto che venga eliminato, c'era anche una disciplina della legge Bersani. Su questo le banche hanno fatto orecchie da mercanti su questo. Poi c'è il messaggio più bello di tutti, che ma la pagano per difendere le banche. Sì, infatti questo notoriamente è un programma in cui difendiamo le banche. La borsa. Allora, Milano ha perso il 2,6% contro un meno 0,4% di Francoforte e Londra più 0,1%, Parigi invariata. Su Milano però pesano per il 2% gli stacchi delle cedole, quindi i dividendi che vengono distribuiti da oltre 27 società, i titoli il giorno in cui si staccano i dividendi scendono per un valore simile allo stacco della cedola, e questo per far capire che poi Milano avrebbe perso lo 0,6%, in realtà non il 2,6%. A livello reale, negativa UBI Banca, meno 2,4%, anche qui attenzione, molti stacchi cedole, meno 2% automatica, meno 1,9% Pirelli, meno 1,9% Banco Popolare, meno 1,8% Impregilo e Unipol, e anche Generali, meno 1,7% Azimut, 1,5% di calo per la Popolare di Milano. Atlantia, anch'essa perde l'1,4% come Fondiaria Assai e Buzzi Unicem, Snam, meno 1,2% come Saipem e Mediaset e anche Mediolanum, e poi perde l'1,2% anche Exor. Chi guadagna oggi? Ansaldo STS più 1,8%, Enel, che pure era, se non ricordo male, più 1%, Prismian più 0,70%, Telecom Italia, che staccava la cedola, guadagna comunque lo 0,7%, Steam Microelectronics più 0,4%, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Telecom. Sì, Telecom diciamo, si è mossa insieme al mercato europeo delle telecomunicazioni, il cui sottoindice Stoxx 600 infatti è salito dello 0,3%. Telecom ha fatto persino meglio. D'altra parte ricordiamo che nelle ultime sedute, nelle scorse settimane, i titoli erano andati, avevano perso molti punti, tant'è che nonostante il rialzo di oggi le azioni sono ancora distanti dalla soglia di 1 euro, hanno chiuso a 0,92 euro. Va notato comunque che sono andate male le azioni di risparmio, hanno perso oltre il 3%, il 3,39%, accusando del giudizio di una banca d'affari che consiglia di spostarsi appunto sulle azioni ordinarie. Poi sempre per quanto riguarda il gruppo di TLC, va ricordato che oggi è partito l'aumento di capitale della controllata TIM Media, aumento di capitale da 240 milioni che terminerà il prossimo 11 giugno, i titoli di TIM Media sono andati male, hanno registrato una delle peggior performance a Piazza Affari, hanno accusato una flessione del 9,7% chiudendo a 0,27 euro, minimo praticamente storico per le azioni. Ancora, ancora, tra i titoli, deboli le banche in generale, salvo il Banco Popolare, Intesa, ma lì ci sono dei report positivi, ma noi di report non parliamo. Abbiamo visto in difficoltà anche in Pregilo, meno 1,8%, nonostante esatto. Gli ordini su aprile siano buoni, no? Sì, esatto. D'altra parte fa paura il fatto che i principali stati europei stanno annunciando una politica di austerity che prevede il taglio delle spese per grandi opere. Ovviamente è proprio il business di Impregilo e quindi il mercato sta già mettendo in conto che questo possa penalizzare sì. Gli ordini futuri della società. E poi Enel, dicevo molto bene, lì c'è un'intervista pubblicata, se non ricordo male, dal Corriere della Sera, di Gilberto Benetton, il quale tra i vari interessi manifestati ha manifestato anche quello per Enel Green Power. Esatto, infatti un'intervista al Corriere della Sera del fine settimana, l'imprenditore veneto ha detto che Sintonia, ovvero la cassaforte della famiglia Benetton, è interessata ad Enel Green Power, che è la controllata del gruppo Enel attiva nelle energie rinnovabili, che dovrebbe sbarcare a Piazza Affari nel prossimo autunno. E, tra l'altro ricordiamo che l'amministratore delegato di Sintonia è Cao, un amministratore che conosce molto bene il settore proprio delle energie perché è il suo settore di provenienza. Ancora tra i titoli, un titolo molto sottile che però bene si è mosso oggi, Molecular Medicine, qui sono notizie di cronaca che abbiamo letto anche nei giorni scorsi, più 8,7%, bene anche acque potabili più 7,3%, Green Vision più 4,6%, molto male Cell Therapeutics meno 18,8%. Cell Therapeutics e Molecular Medicine. Sì, tutte e due operano appunto in un settore affine e Molmed ha festeggiato la notizia che la Food and Drug Administration americana ha dato il nulla osta alla richiesta della sperimentazione negli Stati Uniti di un farmaco contro il tumore, quindi appunto le azioni sono state premiate per questo motivo. Per quanto riguarda le Cell Therapeutics invece hanno risentito dell'annuncio che la società ha concluso un accordo di vendita per 21 milioni di dollari sia di azioni privilegiate che di warrant. E, ovviamente è stata ancora una volta l'occasione per mettere in luce la delicata situazione finanziaria della società. Tra l'altro questa operazione comporterà anche una diluizione del capitale. Bene, questo per quello che riguarda i due titoli, tra i peggiori Digital Brothers meno 11,4%, Telecom Italia Media, tu l'hai detto, meno 9,7%, bene anche Siemens più 4,6%, grazie Eleonora Michele, Radio Core, Il Sole 24 Ore. E adesso torniamo a parlare di lotta all'evasione con qualche postilla. Dunque, alcuni scrivono: attenzione, il rischio sulle carte, i bancomat e la clonazione. Sì, ho capito, ma la clonazione, voglio dire, è un reato, non si può sempre ragionare sul reato, allora anche il rischio del contante che te lo rubino. E poi alcuni scrivono: per fortuna che pagano quasi tutto col bancomat e sono contentissimi. Altri dicono: ma insomma, chiuse le carte tende a indebitarsi di più, non può dire di no. No, dico di no perché io le uso da sempre. E non è vero che uno si indebita di più, certo, insomma, se uno non si ricorda quello che ha speso sono fatti suoi, ma perché dovrebbe? E poi se tu non capisci che le banche ci guadagnano non è colpa di noi ascoltatori. Allora, le banche già ci guadagnano con le carte di credito ed è vero che alcuni costi, l'abbiamo detto, i costi per il prelievo dei istituti differenti sono inaccettabili. Si è mosso su questo l'antitrust e anche il decreto Bersani, le banche hanno fatto orecchie da mercanti. Dopodiché, se poi uno scrive il mio dentista vuole solo contanti, lì entriamo in un altro campo, il contrasto all'evasione fiscale. Allora il dentista vuole solo contanti perché probabilmente fa pagare il 20% in meno, questo dovrebbe essere scaricabile. Dopodiché un dentista non può volere solo contanti, propone solo contanti, perché se no uno lo paga con l'assegno o si becca una denuncia. Vabbè, professor Luca Ricolfi, docente di analisi dei dati all'Università di Torino, editorialista della Stampa, autore di numerosi libri, anche sulla, diciamo, distanza economica che separa il paese, non solo geografica. L'ultimo si chiama Il Sacco del Nord, saggio sulla giustizia territoriale. Buonasera. Buonasera. Lei le usa le carte di credito e il bancomat? Guardi, uso abbastanza il bancomat, molto poco la carta di credito, e le sembrerò un troglodita. No, no, no. Ma il motivo è proprio quello che dice il suo ascoltatore. Cioè, io ho un certo timore che gliela clonino. Clonazioni e cose del genere, perché ho visto che è successo a dei colleghi. E il punto è questo, che se uno non è molto attento, io sono una persona distratta, ha molta più facilità di accorgersi che gli hanno rubato i soldi nel portafoglio che non di accorgersi che qualcosa di anomalo sta succedendo sul suo conto corrente, sulla carta di credito, eccetera. Quindi anche se mi rendo conto che un atteggiamento sbagliato, io sono di quelli che sbagliano. Ma anche quando arriva al casello dell'autostrada, lei si mette nella fila dei contanti? No, no, lì invece mi sono fidato. No, perché molti ascoltatori scrivono, ma ci sono costi aggiuntivi? Non sempre, non è detto, lì bisogna fare informazione. La faremo anche noi con Salvadanaio la mattina, l'ha fatto molte volte Deborah Rosciani, ma al casello e in pizzerie e negli altri esercizi commerciali, se paghi col banco non ci possono essere costi aggiuntivi per il cliente. Comunque, non di questo volevo parlare con lei, ho un minuto di informazioni sul traffico, ma degli studi che lei ha fatto, fermo restando l'evasione doppia rispetto alla media europea, che fa mancare al fisco 100 miliardi di gettito. E appunto la notizia di oggi è quanto ha detto Gianni Letta, la manovra sarà molto dura, sacrifici molto pesanti. E allora, contrasto all'evasione, ma soprattutto anche differenze territoriali, perché poi su 100 miliardi sulle quote di evasione, purtroppo l'Italia è lunga anche lì. Ne parliamo dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, tema leggero leggero, come il paese è diverso, professor Ricolfi, anche nell'evasione fiscale. Fermo restando che il nord è più ricco e che in termini numerici un 10% di evasione al nord pesa di più che un 10% di evasione al sud, però il problema qua è il principio, cioè se tu evadi il 10% su 100.000 euro, voglio dire, stiamo parlando di 10.000 euro, se evadi il... mai pagato il restante sul 90%, se tu evadi il 40% o il 50% su 50.000 euro saranno anche 25.000 euro, ma hai pagato anche molto meno, quindi è un'obiezione inaccettabile. Quant'è la differenza? Perché lei dice nel suo libro che se praticamente l'evasione fosse omogenea, o meglio, non essendo omogenea l'evasione, le regioni del nord pagano 20 miliardi di euro di tasse di troppo e quelle del mezzogiorno fanno mancare 18 miliardi di euro. Non ho capito. Sì, io ho fatto semplicemente un calcolo in base ai dati dell'Agenzia delle Entrate, da una stima dell'evasione fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Io ho fatto dei calcoli regione per regione di quanti quattrini in più o in meno resterebbero in tasca ai suoi cittadini se il tasso di evasione, anziché essere molto diverso da regione a regione, fosse uniforme, fosse lo stesso in tutta Italia. Noi invece abbiamo un tasso che un'intensità dell'evasione che è 12,5 in Lombardia ed è 85 in Calabria. E il calcolo è abbastanza sconcertante. 20 miliardi è, diciamo, il bilancio nord-sud, cioè se l'evasione fiscale fosse uniforme, il nord riceverebbe 20 miliardi in più e il sud potrebbe trattenerne 20 miliardi in meno. Ma ancora più sconcertante se lei prende la Lombardia e la confronta con le tre regioni di mafia. Cioè il credito che ha la Lombardia per la sua scarsa evasione fiscale è di circa 13-14 miliardi di euro, che pari al debito delle tre regioni di mafia nei confronti del resto del paese, cioè all'eccesso di evasione fiscale di queste regioni. E notiamo bene che io sto facendo dei calcoli senza immaginare una riduzione dell'evasione, ma semplicemente immaginando che l'evasione fiscale sia distribuita in modo equo. No, ma non ho capito, lei vuol dire che dovrebbe evadere un po' di più la Lombardia e un po' di meno la Sicilia? Esatto. Se volessimo rimettere a posto, i lombardi dovrebbero evadere 14 miliardi di tasse in più e Sicilia, Campania e Calabria 14 miliardi di euro in meno. Sì, non cambierebbe nulla per i conti dello Stato, ma diciamo per i conti degli abitanti delle... cambierebbe solo per i cittadini. Ecco, no, certo. Vediamo i tassi, perché lei ha stimato appunto, siamo intorno al 20% di evasione in Emilia Romagna, Veneto, Friuli, un po' più alta, 24,5%, Lazio 25%, Piemonte 26% e Lombardia, anche lì siamo intorno ai 18-19% di evasione, mentre al sud, anzi scusatemi, 12% di Lombardia, è il dato più basso, in assoluto, forse perché ci sono molte società di servizi, molte società che... molti dipendenti anche che ricevono la busta paga, mentre in Calabria siamo all'85%, cioè 85 euro sono sottratti sull'imponibile, immagino, non sul non versato. Per ogni 100 euro versati, 85,3 sono evasi. Questo è, ah, è quindi non è l'imponibile, ma è proprio il versamento al fisco. Complimenti. 85, si va appunto alla Puglia, 50 euro ogni 100 versati sono evasi. Campania 55, Sicilia 63,4%. Lei voglio dire, ha fatto anche un calcolo di cosa porterebbe, perché noi abbiamo fatto calcolo prima, se tutta l'evasione italiana fosse portata a 50 miliardi, o meglio non l'evasione ma il gettito che manca, mancano 120 miliardi all'appello, se arrivassero a 50 miliardi avremmo risolto i problemi di deficit, ma soprattutto avremmo un livello ancora di evasione francese. Questo permetterebbe anche una maggiore tenuta del patto di stabilità interno, professore? Ma penso senz'altro di sì. Tra l'altro anch'io ragiono spesso sulla cifra che lei ha fatto, cioè io parto da 120-130 miliardi di euro di evasione totale fiscale contributiva e tendo a pensare che un terzo sia recuperabile da un buon governo, di più no, perché sarebbe già un grande risultato recuperarne un terzo. Un terzo fa appunto circa 45-50 miliardi di euro. Sì, è chiaro che se noi recuperassimo questa evasione noi potremmo allentare il patto di stabilità, perché a questo punto i comuni, le province, le regioni che hanno problemi di bilancio potrebbero in parte risolverli. Teniamo anche presente che il nostro Stato sociale ha un sacco di problemi non solo di efficienza ma anche di completezza, quindi ci sono tante cose che gli amministratori locali vorrebbero fare e che non possono fare per mancanza di quattrini. Se allora, l'evasione venisse ridotta le farebbero. Certo, quindi lei dice, da un lato se tutti evadessero nello stesso modo il Nord potrebbe trattenere 20 miliardi in più, però di evasione a questo punto, professor Ricorsi, sì. e quindi non da rimettere in circo, magari non si mette sotto ho capito, si mette sotto materasso, e il Sud dovrebbe versare 20 miliardi in più. Io dico, se oltre a questo avessimo, oltre a combattere le differenze dall'85% della Calabria e il 12% della Lombardia quanto evasione, portassimo anche l'evasione dal 22%, ci batte solo la Grecia, all'11%, a quel punto altro che manovre lacrime e sangue come quella che sta facendo il governo. Comunque, e ripeto, nessuno ha detto che l'evasione deve scomparire, stiamo ragionando in maniera realistica, l'11% del PIL non è poca cosa. Mi dica ancora un elemento, dottor Ricolfi, che cos'è il tasso di spreco nei servizi pubblici? Perché lei ha misurato anche questo. Sì, il tasso di spreco si può spiegare così, anziché chiederci come si potrebbe erogare un servizio in un mondo perfetto, ci possiamo fare una domanda più realistica: come si potrebbe erogare un servizio se un territorio si organizzasse come il territorio più efficiente, quello in cui il servizio è erogato meglio? Allora, calcolando questo, prendendo a modello il territorio più efficiente, il cosiddetto benchmark, noi possiamo in ogni regione calcolare quanti quattrini spenderebbero in meno gli erogatori di servizi se si organizzassero come la regione più efficiente, che generalmente o è la Lombardia o l'Emilia Romagna o il Veneto, in quasi tutti i calcoli che si fanno. Sono queste le tre grandi regioni virtuose dell'Italia. E anche qui incredibile il dato. E poi c'è il tasso di parassitismo, cioè il peso del settore improduttivo su quello produttivo. Vabbè, questa si va più verso il federalismo fiscale. Devo dire che anche nella manovra, per quello che abbiamo letto, per le indiscrezioni che sono uscite, ci dovrebbe essere un elemento in cui si va a guardare per la sanità il parametro di riferimento per gli acquisti nella sanità per evitare gli sprechi, cioè si cerca di avere un parametro uniforme. Comunque abbiamo risolto anche il suo problema con le carte di credito e con i bancomat, professor Ricolfi, perché molti ascoltatori ci hanno fatto notare, hanno ragione, che c'è il servizio SMS, se arriva un'operazione fatta lei può chiedere, lo so, ma io non uso allora basta, vabbè. Precapitalistico. Allora, premoderno, dai. Premoderno. Perché non è che vabbè, questo vale per tutti gli altri che ce lo chiedono e tra l'altro molti scrivono che stanno usando il bancomat da anni e si trovano benissimo. A chi ci chiede, ma il commerciante può chiedermi una maggiorazione del 3% sul prezzo esposto perché uso la Visa? No, non può. Non può, se lo fa è scorretto, fine. Se lo fa, ma io pago 3% di più, chi se ne frega, l'hai voluta la Visa, devi pagare in più. Comunque, grazie Luca Ricolfi, e da Sebastiano Barigioni veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.